E nuovamente la sigla in scena ci riporta in diretta. Oggi tre appuntamenti, abbiamo un terzetto d'eccezione per la rubrica che conclude la settimana nel Breakfast Club di Radio Città Fujiko. Andiamo in quel della provincia estense che nel cuor mi sta, lo sapete bene, eh? Parleremo del gruppo dei 10 che già conosciamo per l'estate 2024. Oggi è venerdì 7 giugno e diamo il buongiorno ad Alessandro Mistri, direttore artistico. Buongiorno, bentornato Alessandro. Ciao William, buongiorno a tutti voi. Oggi Alessandro è venerdì, questo che dopo non hai altri appuntamenti e andiamo a scombinare delle cose che avevamo programmato. Così. Assolutamente. Ricordiamo con precisione, tra l'altro sei stato puntualissimo invece. Il gruppo dei 10, iniziamo portando un piccolo e sintetico approfondimento a questa realtà. Come ben sai, noi seguiamo passin passino il programma del Jazz Club estense, facciamo un passo indietro e parliamo del gruppo dei 10. A te la parola, Alessandro. Beh, voi siete sempre meritori nel dare spazio a queste attività, perché diventa sempre più difficile portarle avanti, però noi siamo molto contenti, è andata benissimo la stagione primaverile, adesso ci accingiamo ad affrontare appunto l'estate che portiamo verso il mare. Perché manterremo due appuntamenti nel nostro luogo di elezione, che è lo Spirito di Rano Maynard, però per il resto abbiamo 7 appuntamenti, 4 al Bagno di Comacchio e 3 al Bagno Marrakech, che invece è al Lido di Spina, per cui diciamo seguiamo un po' l'onda e cerchiamo di intercettare così i nostri che si spostano e anche quelli che possono essere d'estate appunto attratti dalla nostra costa, ecco. Molto bello dire seguiamo l'onda, perché in versione estiva ci sta perfettamente, se mai arriva questa estate, ma a quanto pare siamo ottimisti, è un bel venerdì. Si comincia ufficialmente questa sera. Sì, esatto, siamo felicissimi di ospitare come prima serata inaugurale al Bar Ragno, appunto a Comacchio, che nonostante il nome, per chi non lo sapesse, il bar è sì un bar, ma in effetti un posto magico, perché sotto alloggia del Grano, uno dei posti più seducenti appunto di Comacchio, di questa cittadina che di per sé è anche molto seducente. Beh, stasera ospitiamo il quintetto di Rosario Bonaccorso, che tutti conoscete, grandissimo contrabbassista, Rosario che spesso si avventura in lidi nuovi con le sue produzioni, infatti questo ricalca il disco che è appena uscito e che ha un bellissimo titolo, Senza far rumore. E certe volte parlo con mio amico Ella, dico non prendertela perché casualmente è senza batteria, ma non credo che il titolo si riferisca a questo, e senza far rumore più che altro perché è un viaggio meraviglioso, infatti anche qua tirare fuori le onde che si sentono nella musica che ascolteremo stasera. E il gruppo è comunque formato, oltre che da Rosario, da Roberto Taufica alla chitarra, poi ci sarà questa magnifica pianista cantante che è Olivia Trummer, e poi ancora Fausto Beccalossi alla fisarmonica e Fulvio Sigurta alla tromba, per cui veramente il disco chiaramente l'ho sentito e risentito. È una bella formazione, sì. È una bella formazione senz'altro di grandi musicisti, ma soprattutto è veramente si ispira un po' al Brasile, ad altre cose, è un viaggio veramente che ricorda il mare come atmosfera, come leggerezza, e devo dire che non è solo il mare fisico, ma anche il mare delle emozioni e soprattutto dei sentimenti. Devo dire che Rosario ha reso anche in tanti brani, ma forse in tutta l'opera, un omaggio a suo fratello Naco, che come sapete è scomparso, grande percussionista, più di 20 anni fa, e a cui lui dedica fra l'altro tutti gli anni il Bergfest alla Iguella, dove si avvicinano grandi, grandissimi musicisti italiani e non italiani. Abbiamo un programma che non vede solamente un'alta qualità musicale, ma anche qualcosa di letterario, se non sbaglio. Beh, ma sì, lì ci divertiamo sempre, come tu sai, addirittura tutte le nostre rassegne stagionali si chiamano tutte le direzioni, perché l'ispirazione è sempre venuta dal famoso cartello stradale, quello che ci rimette di buon umore quando non sappiamo dove andare. Io vado ecco, lì. Esatto. Allora scusate, anche in occasione di questa stagione, due appuntamenti, proprio quelli che teniamo a Vigrano, saranno dedicati in parte alla letteratura. soprattutto la settimana prossima saremo appunto allo Spirito con una lettura, ma è anche un gioco, lo dico sempre, una lettura delle poesie di Corrado Rovone, che è stato uno dei più importanti poeti del primo Novecento, naturalmente ferrarese, anzi di Tamara di Copparo, che mi sono accorto di una cosa andando a cercare un libro che volevo regalare a un amico, praticamente è fuori dai cataloghi, cioè è difficilissimo al giorno d'oggi uscire dalla moda, e allora cerchiamo anche noi di restituirlo alla giustizia del ricordo e dell'ascolto, soprattutto perché si passa da periodi futuristi a periodi decadenti prima, insomma, per cui veramente merita di essere ascoltato. Poi fra l'altro avremo un sottofondo costante di Max Tagliata alla fisarmonica che ci darà quel tanto di più per poter passare una bellissima serata in vigna allo Spirito. L'altro appuntamento sarà invece l'8 agosto, è un Peccato Vinile edizione speciale, come sapete è una serata in cui si ascoltano dei vinili in genere. Questa volta abbiamo deciso di far sì che il vinile diventasse letteratura. Perché? Perché tempo fa altro grande autore che rischiamo di dimenticare, Giuseppe Pederiali, che è stato un po' il cantore, anzi di tutta la Padania, non in senso politico, in senso letterario. Esatto, aveva scritto fra i tanti libri uno bellissimo, che è stato fra l'altro il primo che mi è capitato di leggere, poi dopo ho anche conosciuto Giuseppe, abbiamo avuto un'amicizia per lungo tempo, che si chiama Il lato A della vita, e naturalmente parla di un Cantagiro del 68, fra l'altro anno particolare per le vicende anche proprio del paese e forse di tutto il mondo, e questo lato A della vita racconta questo giornalista, che era poi lui, che seguiva il Cantagiro, ma è solo un pretesto per entrare tante situazioni di carattere anche qua molto sentimentale, non solo, ma con delle osservazioni puntuali che è bello rileggere anche a distanza di tempo. Teniamo presente che il libro è del 2001, non proprio lontanissimo, però si rifà a questo Cantagiro del 68. Per la cronaca ha vinto da Caterina Caselli con Il volto della vita. Sì, e tra l'altro c'è anche uno spazio per un pop ricercato di cui parleremo. Non perdete l'occasione di fare una gita nella campagna che degrada lentamente verso il mare, degrada non in senso negativo ma aggiungendo colori, emozioni, sensazioni. Nella provincia ferrarese, estensa e bellissima già di per sé, anche i dintorni sono da non perdere. Siamo partiti con Comacchio, che è un capolavoro assoluto d'arte ed emozione. Arriveremo anche in altri spazi fino al mare, quindi il gruppo dei 10 vi porta veramente in tutte le direzioni in summertime, ovviamente anche artisticamente tra musica, poesia, letteratura, il programma musicale oltre che la qualità, la varietà. Alessandro, puoi restare un pochettino che metto un po' di musica per... Ma molto volentieri, anche perché volevo ricordare poi dopo eventualmente velocissimamente gli altri appuntamenti. Sì, assolutamente, a tra poco. Ti propongo, tra l'altro ho visto un programma dove vi è una citazione, una collaborazione con tantissimi artisti per quanto riguarda l'artista di cui parleremo, da Greg Cohen a Mark Ribot a Joy Baron. A tale proposito mi è venuto in mente di portare un disco di Joy Baron. A tra poco, buon ascolto! Thank you. Ron Carter on the bass, Joy Baron, come vi abbiamo anticipato insieme ad Alessandro Mistri, direttore artistico del gruppo dei 10 in queste tutte direzioni, estate 2024, alla batteria, accompagnato anche da un Bill Frisell, uno dei dischi che per quanto riguarda Joy Baron ho apprezzato di più. We'll Soon Find Cat, il titolo dell'LP. E visto appunto che amiamo un certo aspetto di diffusione musicale in vinile, ho precisato in LP. Ci sei Alessandro? Ti ho lasciato. Ci sono e ho ascoltato molto volentieri. Grazie, come ho detto. Per arrivare al mare dalla Ferrara, delizia estense come tante delizie vi sono, soffermandosi a Comacchio e non solo, volevi aggiungere altri appuntamenti. Tra l'altro ho letto così in presentazione anche di un Frank Sinatra, ci puoi dire qualcosa di più? Ma vi dico subito, ma seguendo una cronologia mi rimarrei, sì, un attimo anche perché siamo. No, sai perché? Perché sentendo Joy Baron, dato che ne parlo spesso, mi capita con l'amico Ella De Bandini, che è anche uno dei batteristi che lui ama particolarmente. E allora proprio il 5 luglio torniamo al Baragno con l'Eliade che ci siamo inventati, che appunto è Ella De Bandini in varie versioni. Il sottotitolo è Vita epica di un batterista. Fra pensieri, suoni e immagini. Infatti è uno spettacolo, una specie di one man band fatto tutto alla batteria, ma fino a un certo punto, perché ci saranno video, lui ripercorrerà un po' tutta la sua fantastica carriera che ha contatto con musicisti sia della parte pop che della parte jazz e di altri settori ancora, e alla fine verrà accompagnato però da due magnifici musicisti che sono Joe La Viola al sax tenore e Nick Mazzucconi al basso elettrico. Per cui questo per il 5 luglio è una cosa da non perdere, una cosa che sta andando molto in giro, che è la De Porta con orgoglio, e devo dire che è sempre estremamente d'impatto anche per chi viene a viverla e a sentirla. Io l'ho sottolineato, sappi che è probabile una mia presenza. Ma William, guarda, ne sarei felice, così potrai parlarne tu direttamente senza, sì, bisogno che sia io a raccontare, no, diciamo, questa occasione. No, quello che dicevi tu invece sì, perché i tre appuntamenti che sono consecutivi al Bagno Marrakesh, appunto al Lido di Spina, dove fra l'altro si cenerà come al solito, adesso è bellissimo, di grande suggestione sulla sabbia, e poi dopo a seguire come sempre, perché non confondiamo mai la parte gastronomica con la parte musicale, ma sono consecutive. Ecco, dopo ci sarà appunto Gianluca Guidi, che dedicherà la serata a un tributo a Frank Sinatra. Da parte di Gianluca Guidi, come ricordiamo anche suo padre, Johnny Dorelli sono sempre stati un riferimento preciso per questa, sì, musica. Ecco. E poi fra l'altro con un bellissimo gruppo, perché c'è Dario Sceglione con la salsa al pianoforte, Amedeo Arbiano alla batteria. Poi subito più avanti, a fine luglio, avremo il 24 il Sugar Pie e Candyman, che è un gruppo divertente, bravissimi, che sono sempre ospiti a Ombre Jazz, chiamati da Pagnotta, perché è un riferimento costante, ma già da diversi anni. E questa volta tornerà Giorgia Ciavatta, che è la cantante originaria, bravissima anche lei. D'altra parte dico sempre bravissimo, ma in effetti se non fossero bravissimi non li chiameremo, per cui è ovvio. e chiudiamo al Marrakech invece con un ritorno, perché abbiamo un po' pescato anche da certi successi dell'annata scorsa per capire quanto poteva essere idoneo anche per passare delle belle serate appunto in riva al mare. E torna Blue Lou Marini, che come sapete è il sassofonista reso famoso, ma non solo dai Blues Brothers, dai due film che sono stati fatti, e poi è presente anche alla Casa Bianca. Comunque è considerato veramente un maestro del sax tenore, che è stato di riferimento per tanti sassofonisti, anche qua con Enzo Zirilli, Luca Di Ienno e Alessandro Chiappetta, organ trio che accompagna appunto Lou Marini. E le ultime due appuntamenti sono di nuovo al Barragno, e in questo caso avremo anche qua un ritorno dopo l'inverno, perché è stata una cosa, dire anche questa, seducente al massimo, che è stato Mimmo Locasciulli, uno dei grandi cantautori della scuola romana dagli anni 70 in avanti, che verrà accompagnato in questo caso dal suo contrabbassista Di Marzio. E chiuderemo invece il 13 settembre al Barragno, ancora naturalmente come siamo partiti così chiudiamo, con un magnifico quintetto che presenta un nuovo disco di Amedeo Ariano, appunto Afro Dance è il titolo del disco, e ci saranno i tre fratelli Deida, tutti e tre, che sappiamo il valore che hanno nell'insieme e anche singolarmente. Pertanto anche questo concerto da non perdere. In più ci sarà anche la presenza di Paolo Bisogno al vibrafono, per cui uno strumento anche questo che dà tutto un tono, una sequenza particolare. Afro Dance, fra l'altro, un bellissimo disco che è un po' la summa di tante ispirazioni legate a momenti diversi del jazz e della storia del jazz. Si passa direi da atmosfere West Coast fino a quelle Harbor, fino a quelle più attuali, per cui credo che sia una chiusura più che degna. Certo, mi soffermo su Lou Marini per il capolavoro dei Blues Brothers insieme alla Booker T and the MGs, quindi abbiamo veramente un apice, ma come tutti del resto, ognuno con la propria personalità e originalità. Complimenti Alessandro. Grazie a voi. Grazie a te. Il gruppo dei 10, tutte le direzioni in Summertime 2024, per avere informazioni, purtroppo mi tocca di dirlo, online, c'è la possibilità per consultare comodamente, oltre che ascoltando Radio Città Fujiko, il programma della rassegna. Basta guardare anche sulla pagina Facebook del gruppo, proprio il gruppo dei 10, con 10 scritto in cifre e il resto in lettere, per cui lo trovate facilmente. C'è anche il sito, naturalmente, che è uguale, identico. Buona giornata, buon venerdì, buona rassegna. Grazie a voi, grazie, buona continuazione e buona estate a tutti. Ci vediamo presto, ciao Alessandro. Ti aspetto, ciao. Future is my past, memories will last. I learned to love the days gone by. Each day that come and go is like the one before. My mind's lost till the day I die. Words would fail me if I tried to describe her, though she ain't all she should have been. She was a devil with the face of an angel. She was sweet and cruel, cruel and sweet as homemade sin. You would be so kind, help me find my mind. I wanna thank you in advance. Know this before you start, my soul's been torn apart. I lost my heart in a wild romance. Thank you. buoni, silenzio, silenzio, che arriva una voce, mi sembra di sentire. Ma è estate, ci siamo, dite davvero, sembra estate, eh? Adesso bisognerebbe dirlo piano, però insomma, già dalla conduzione in Bermuda e in Freddy, cioè, è estate, insomma, non è che... Concerti nella splendida Comacchio, concerti in riva al mare, sui lidi, è estate, sì, non è che poi di... No, è estate. Poi saltiamo fuori, come si sta bene col puloverino la sera. No, non voglio il puloverino la sera. No, voglio sudare. No. Words would fail me if I tried to describe her. Though she ain't. Voglio bere una birretta coi piedi nella sabbia, no. She was a devil with the face of an angel. She was sweet and cruel. Già ieri comunque sono stato invaso nel pomeriggio da questo profumo meraviglioso. È arrivato un po' in ritardo, ma va bene, guarda, vi dirò, va bene. È arrivata tanta di quell'acqua che ha fatto l'effetto Glad Aria Nuova sui piccoli fiorellini di gelsomino e tiglio. A Bologna c'è un profumo. I lost my mind in a wild romance. I lost my Romance. Steve Evans e il suo quartetto ci accompagna alla pubblicità. A tra poco si torna in scena.